Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Voto amministrativo a Pordenone in testa, basso per il centro-destra, staccato con Ficoni centro-sinistra dietro Salvatore Ciriani. A Monfalcone si afferma il candidato del centro-destra Fasana, delusione per Moretti sostenuto dal centro-sinistra. A Nimis sindaco Fabrizio Mattiuzza, appoggiato da una civica San Pier di Sonzo, Denis Zucco del centro-sinistra oltre il 68%. La pioggia rimette in movimento la frana di Clauzetto, strada chiusa, ma riapriremo per Pasqua, fanno sapere i tecnici dell'EDR. In carcere a Trieste per atti persecutori e revenge porn, pedinava e umiliava l'ex moglie fino a mettere online un video intimo della donna. Gasolio di contrabbando, 300.000 litri sequestrati dalla finanza di Udine, IVA evasa per 100.000 euro, quasi il doppio in accise non versate. 12:31 minuti, buongiorno da Dario Ronzoni e Rita Micoli. Si stanno concludendo gli spogli del voto amministrativo in quattro comuni della regione, il più grande Pordenone, dove non dovrebbe quasi certamente servire il ballottaggio. A circa metà dello scrutinio si conferma il vantaggio di Alessandro Basso, sostenuto dal centrodestra con circa il 53% dei voti, davanti a Nicola Conficoni del centro-sinistra, che finora ha ricevuto poco meno del 36% dei consensi. Basta infatti raggiungere il 40% dei voti espressi per essere eletto al primo turno di voto secondo la legge da poco entrata in vigore. Alle loro spalle ancora Marco Salvador al 7,7%, Anna Ciriani circa al 2,5%, ma sentiamo un primo commento a caldo di Alessandro Basso al microfono di Natascia Gargano. Alessandro Basso, scrutino ancora in corso, voti ancora parziali, ma qual è un primo commento a caldo? Ma il primo commento è che sono davvero felice, perché abbiamo atteso fino adesso per poter rilasciare qualsiasi dichiarazione, aspettiamo ancora per quelle ufficiali, però quello che viene fuori è una grande felicità per un risultato, anche per raccogliere i frutti di una campagna elettorale che è stata molto bella, molto intensa e che sta dando esattamente quello che ci eravamo programmati e anche di più. Rispetto alle aspettative, quindi? Siamo al di sopra delle aspettative per risultato personale, per composizione della squadra, per risposta della città univoca, e questo mi dà davvero grandissima soddisfazione. C'è qualcosa che l'ha sorpresa? No, per il momento no. Ecco, forse una cosa che mi fa gioia oltre che sorpresa è il fatto di essere stato letto positivamente in tutta la città. Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. E a Monfalcone lo scrutinio è quasi terminato, sono 35 le sezioni rilevate su 36. Luca Fasan, candidato del centrodestra, può già brindare a oltre il 70% delle preferenze tra i candidati. Deluso invece Diego Moretti del centro-sinistra, che arriva poco oltre il 26%, mentre il candidato Bucconate è arrivato sotto il 3%. Confermato anche l'andamento delle liste, la Lega, primo partito con oltre il 30%, a seguire la lista Cisinte, che quasi tocca il 25%, molto staccato il Partito Democratico con il 10,5% dei voti. Ma sentiamo le parole di Luca Fasan. Una vittoria schiacciante, se l'aspettava così netta, con risultati paragonabili a quelli dell'ultima elezione della sindaca Cisinte. Mi aspettavo un grande risultato, questo sì, ci speravo. Fino a questo punto, sinceramente, ha colto anche me un po' in contropiede. Però ovviamente sono contento, perché poi alla fine era quello che respiravo in giro nella città da 2 mesi. Stiamo facendo campagna elettorale, stiamo incontrando i cittadini in ogni dove, dalla piazza stessa, camminando per la città, andando a fare la spesa, ma anche nei locali, nelle associazioni di categoria. E questo grande affetto l'abbiamo percepito dappertutto. Tanti voti per la Lega e per la lista Cisint, non si rischia un po' di squilibrare la maggioranza? No, non ritengo. Innanzitutto quello che è l'espressione dei cittadini non squilibra mai nulla. Noi interpreteremo i voti e faremo le nostre valutazioni, ma è insindacabile che il giudizio dei cittadini non può essere discusso. Dopo questa elezione è possibile che arriverà da parte vostra una mano tesa verso la comunità islamica per provare a discutere? E anche qui, come ho già ribadito, la mano non si è mai ritratta. La mano è sempre stata tesa, noi abbiamo sempre dialogato con la comunità islamica, però come ho sempre detto, per dialogare bisogna essere in due, no? Ci vuole anche la controparte che sia aperta al dialogo. Monfalcone, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. E a conclusione dello scrutinio delle quattro sezioni elettorali di Nimis, Fabrizio Mattiuzza, sostenuto dalla lista Obiettivo Nimis, è risultato essere il nuovo sindaco con il 63,08% dei consensi e 798 voti. 467 i voti per l'altro candidato, Sergio Bonfini, pari al 36,92%. A sostenerlo le liste Cheyman Culpiese e Nimis Riparte. E a San Pier di Sonzo ha vinto la candidata del centro-sinistra Denise Zucco, che ha il 68,84% dei voti, che equivalgono a 685 voti, contro il 31,16% di Alex Daronco, sostenuto da un'altra lista civica che ha riportato 310 preferenze. E i dati definitivi e ulteriori aggiornamenti sul voto sul nostro sito rainews.it/tgr/fvg, poi sul speciale a diffusione regionale su Rai 3 a partire dalle 12:49 tra pochi minuti, e poi con gli aggiornamenti nel prossimo telegiornale e nelle prossime edizioni del giornale radio. E continuiamo adesso con le notizie del giornale radio. I sindaci della Carnia si sono ritrovati ieri a Tolmezzo per discutere sulla questione dei rischi penali che toccano gli amministratori locali per le attività svolte dalla protezione civile. La riunione precede quella convocata per domani a Udine dall'assessore Riccardi nell'auditorium della regione con tutti i sindaci e i coordinatori della protezione civile per capire come agire dopo il rinvio a giudizio per omicidio colposo del sindaco di Preone dopo la morte di un volontario della protezione civile travolto da una ceppaia durante un intervento nel luglio del 2023. Forse il maltempo di queste ultime ore ha contribuito a rimettere in movimento la frana di Clauzetto lungo l'ex provinciale 22. Sassi, terra e alberi si sono staccati dal pendio scivolando verso il piano stradale. L'ultimo episodio di rilievo era stato registrato lo scorso ottobre. La strada è stata chiusa poco fa. Sul posto, già questa mattina, c'era il geologo Andrea Mucchiutti, consulente dell'EDR di Pordenone, che sentiamo al microfono di Lillo Montalto Monella. Nonostante le piogge non siano così intense, il livello evidentemente è stato superato e la frana ha cominciato a muoversi. I due sensori sono anche stati travolti proprio dalla frana e sono attualmente fuori uso. Quali sono le prospettive di medio e lungo termine per questo movimento franoso che è da 300.000 metri cubi in totale? È una frana in terreni sciolti, in argille, che appunto si muove ogni qualvolta ci siano delle piogge. Adesso per diversi mesi è rimasta quiescente, adesso da oggi appunto si è riattivata. Stiamo valutando un'alternativa della strada perché appunto il movimento franoso è di entità tale che diventa difficile pensare di arrestarlo. Questa mattina siete riusciti a far transitare chi doveva andare al lavoro o lo scuolabus? Sì, appunto, eravamo lì a presidiare la frana, abbiamo fatto passare tutti quelli che dovevano scendere a valle. Il meteo da pioggia per ancora tanti giorni e si avvicina il weekend di Pasqua che per Clauzetto è fondamentale per le grotte di Pradis. Pensa che per Pasqua possa riaprire? Sì, direi di sì. Credo che nel giro di 2-3 giorni si potrà riaprire. Adesso abbiamo già ordinato i nuovi sensori che sono andati distrutti e da domani si inizieranno i lavori. Chiaramente il meteo è quello che decide più che i geologi in questo caso. Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. E un grave incidente stradale in A4 questa notte poco dopo le 2 in direzione Venezia all'altezza dell'area di servizio di Fratta. Un furgone ha tamponato un tir, il conducente, un cittadino polacco di 29 anni, è rimasto incastrato nell'abitacolo. I vigili del fuoco del comando di Venezia con quelli di Latisana hanno lavorato un'ora per riuscire a liberarlo. Quando è stato estratto dalle lamiere l'uomo era in coma con gravissimi traumi all'addome, al bacino, gli arti inferiori completamente fratturati e un trauma cranico-facciale. Un cittadino serbo di 49 anni residente a Trieste è stato prima denunciato e poi arrestato dai carabinieri di Via dell'Istria per atti persecutori contro la ex moglie per revenge porn, ovvero per aver diffuso illecitamente immagini e video sessualmente espliciti. L'indagine è partita dalla denuncia della donna, una quarantenne, che ha riferito di aver subito negli ultimi 6 anni vessazioni sia mentre viveva con l'uomo sia in seguito. Lui la pedinava, la umiliava, la tormentava con telefonate e messaggi. lei si è allora rivolta alle forze dell'ordine denunciando la situazione di stress e paura che stava vivendo. Dalle indagini è emerso poi che l'uomo aveva rubato dal cellulare della donna video a contenuto sessualmente esplicito che la ritraevano e le aveva diffuse. Cercavano di farla entrare in Italia con bolle false che lo identificavano come miscela di solventi organici o liquido anticorrosivo. Nelle cisterne che attraversavano i confini di Tarvisio e Gorizia c'era però gasolio tagliatosi con additivi per renderlo difficilmente riconoscibile, ma comunque carburante da trazione su cui non venivano pagate né IVA né accise. A scoprire e sequestrare più di 300.000 litri di carburante in arrivo da Slovacchia e Ungheria è stata la Guardia di Finanza di Udine, tutti destinati, pare, a pompe di benzina stradali del sud Italia. Con i carichi di carburante sono finiti sotto sequestro anche 8 articolati, 2 autocisterne e un container. Gli autotrasportatori sono stati denunciati per evasione, una truffa da quasi 100.000 euro di IVA evasa e circa il doppio per il mancato pagamento delle accise. A insospettire le fiamme gialle durante i controlli in autostrada erano state le anomalie nelle bolle, ma anche le caratteristiche insolite dei prodotti trasportati. I campioni prelevati hanno poi confermato i sospetti. Si trattava di gasolio e non dei sottoprodotti dichiarati. E oltre al danno all'erario, quel carburante avrebbe causato effetti deleteri sui motori dei veicoli, oltre che rischi sia per l'ambiente che per la sicurezza della circolazione. La polizia di Trieste ha denunciato 5 cittadini kosovari e un cittadino serbo che sarebbero responsabili di furto in un'oreficeria. Il personale del commissariato di Duino Risina ha individuato gli autori del colpo messo a segno a Sistiana nella notte dell'8 novembre 2024, un furto di gioielli per oltre 100.000 euro. Secondo gli investigatori, i 6 uomini sarebbero autori anche di altri furti in Friuli Venezia Giulia e in Veneto. Il capo della banda, un cittadino kosovaro di 49 anni, avrebbe operato dalla base logistica di Udine, da dove i criminali partivano con diverse autovetture per compiere di notte i propri colpi in negozi e banche. Tutti erano già stati arrestati in flagranza di reato per il furto commesso in un'altra oreficeria in un centro commerciale a Colonia Veneta, in provincia di Verona. Voltiamo pagina. Morbo di Parkinson colpisce il 2% della popolazione. Una sperimentazione che potrebbe tardare gli effetti degenerativi della malattia arriva da un nuovo trattamento che un'azienda statunitense propone in Friuli Venezia Giulia, dove sta insediando un nuovo centro di ricerca all'interno dello Urban Center di Trieste. Scelgono il Friuli Venezia Giulia, Trieste e tutta la comunità scientifica per il primo insediamento oltreoceano, il primo e unico in Europa. I fondatori della Performance Medical Technologies PMT della Virginia, azienda americana specializzata nello sviluppo di farmaci per la cura di malattie neurodegenerative con particolare attenzione al morbo di Parkinson. La presentazione è avvenuta poco fa in regione, ma per capire esattamente di che cosa si tratta parliamo con Alberto Venussi, professore di neurologia all'Università di Trieste e lavora in ASU. Professore, di fatto che cosa si farà concretamente? Si parla di un investimento da 3 milioni di euro. Sì, l'investimento è molto ingente, lo scopo è quello di cercare un nuovo trattamento efficace per la malattia di Parkinson. Noi sappiamo che la malattia di Parkinson è una malattia molto frequente, circa il 2% della popolazione dopo i 60 anni ne ha affetto, è una malattia invalidante per cui attualmente non abbiamo dei farmaci che vanno a modificare il decorso della malattia. Questo investimento serve appunto per cercare un nuovo trattamento efficace nel modificare la storia naturale della malattia di Parkinson. Verranno coinvolti i vostri pazienti? Sì, verranno coinvolti anche i nostri pazienti soprattutto in fase iniziale. Il trattamento sperimentale verrà valutato in una corte ristretta all'inizio di pazienti per valutare appunto i primi parametri di efficacia. Siete positivi? Siamo molto positivi, un trattamento che sicuramente ha molte promesse, speriamo che le soddisfi tutte. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. La gita di Grado è la spiaggia italiana con più prenotazioni straniere che costituiscono il 35% del totale, lo dice il monitoraggio compiuto da un sito specializzato. La gita offre anche un servizio di condivisione di lettini e ombrelloni inutilizzati che può essere impiegato attraverso la app. Sono alcune delle particolarità messe in campo dall'amministrazione uscente che si presenterà ai soci il prossimo 1 maggio alla vigilia dell'apertura della stagione estiva. Tra i risultati la gita può vantare anche il fatto di essere la prima spiaggia in Italia a offrire il servizio di telemedicina, oltre alla collaborazione con l'AIRC per la ricerca sul cancro, cui destina l'8% degli incassi. Dopo i dati nazionali, l'Istat ha illustrato oggi nella sua sede di Trieste i risultati regionali del censimento della popolazione 2023. Abbiamo intervistato Elena Markesic della direzione centrale Istat FVG. Dicembre di quell'anno la popolazione del Friuli Venezia Giulia è di poco inferiore al 1.200.000 abitanti ed è stabile rispetto all'anno precedente. Questa stabilità è dovuta a due dinamiche contrapposte. Da una parte un saldo naturale fortemente negativo con i decessi che superano di gran lunga le nascite e nel 2023 fra l'altro abbiamo assistito a un nuovo record storico negativo delle nascite. Dall'altra parte abbiamo saldi migratori positivi, soprattutto con l'estero, che vanno a compensare questa perdita dovuta al saldo naturale negativo e consente di avere una popolazione sostanzialmente stabile. Oltre, nonostante ci siano dei dati di crescita date dalle nascite sia degli autoctoni che degli immigrati, però la popolazione diventa sempre più vecchia. Sì, siamo una delle regioni più vecchie d'Italia, questo è evidente nell'età media della popolazione che nel 2023 è di 48 anni e mezzo, praticamente di 2 anni superiore alla media italiana e rispetto al 2022 è aumentata di 2 mesi, quindi è in continuo aumento. Questo invecchiamento della popolazione è più evidente nei piccoli comuni, soprattutto quelli dell'area montana, con un record, ahimè, negativo del comune di Drenchia, che non solo è il più piccolo della regione, con 101 abitanti, ma è anche il più vecchio, con un'età media di 65 anni, che è la più elevata fra tutti i comuni d'Italia. Biagio Ingenito, TGR Friuli Venezia Giulia. Come diventare operatore sociosanitario? Si terrà oggi un webinar informativo sui corsi di qualifica che partono da giugno 2025 nella sede di Udine. L'organizza l'IRES del Friuli Venezia Giulia. Il corso illustra le opportunità di inserimento nel settore sanitario e sociale e le modalità per l'iscrizione e i dettagli dei processi di selezione all'inizio alle 17. L'arte come strumento per favorire il dialogo fra medici e pazienti nella sala d'attesa del servizio di Day Surgery del Burlo Garofalo di Trieste viene inaugurata alle 16.30 di oggi la mostra dal titolo Il tempo dell'attesa organizzata dalla dottoressa Federica Scrivin, ginecologa e figura storica dell'istituto. L'abbiamo intervistata. In questo momento storico il dialogo tra i medici, i sanitari in generale e i pazienti è particolarmente sofferto perché la parola mala sanità, che compare spessissimo nella stampa, ha ferito molti di noi, molti dei medici, e ha contribuito a rendere il rapporto più difficile e a creare sfiducia nei cittadini. Noi con questo evento e la cura che cerchiamo di dare al nostro servizio di Day Surgery dell'ospedale Burlo Garofalo vogliamo favorire le relazioni positive, favorire l'empatia, rassicurare. È venuto un suggerimento da Tiziano Terzani che durante la sua grave malattia scriveva che pur conservando grande fiducia nei medici che lo curavano, gli parevano violini a cui mancava una corda. Ecco, noi con questo evento cerchiamo di far suonare anche quella corda e quindi di affiancare a quel rigore scientifico che caratterizza il nostro lavoro e che è il pilastro del nostro lavoro, anche un messaggio di dialogo, di empatia. E in questo modo infatti noi organizzeremo una cerimonia che sarà preceduta da un incontro in Aula Magna del Burlo in cui i medici, i pazienti e gli artisti colloquieranno attraverso la lettura di testi letterari e giornalistici. Quindi in pratica faremo parlare dei medici, ma faremo parlare anche dei pazienti particolari come Tiziano Terzani, come la Concita De Gregorio. Tommaso Montanari, Paola Caridi, Lucio Caracciolo, ma anche Francesca Mannocchi, Elena Janecek e molti altri sono alcuni degli ospiti della 21ª edizione del Festival Vicino Lontano che si terrà a Udine dal 7 all'11 maggio e che è stato presentato questa mattina in città. Il tema di questa edizione è scarto, inteso come esclusione ed emarginazione, ma anche come cambiamento improvviso. In programma oltre 100 eventi tra incontri, dibattiti, mostre, spettacoli e proiezioni coinvolgeranno più di 200 personalità nei campi della scienza, della letteratura, dell'arte, dello spettacolo e dell'informazione. Prendersi cura di chi si prende cura è il titolo dell'iniziativa dedicata ai familiari di persone affette da demenza. Il progetto, promosso dalla startup Sofia, Sostenere ogni famiglia in autonomia, in collaborazione con la dottoressa Lorena Manola, psicologa e psicoterapeuta, si terrà a Sacile alle 17 in via Cavour 28 e prevede l'attivazione di gruppi di terapia EMDR. Abbiamo chiesto alla dottoressa Manola cosa significa prendersi cura dei caregiver attraverso sulla terapia EMDR. Significa lavorare sullo stress che loro vivono quotidianamente attraverso l'EMDR, che è un approccio psicoterapeutico che si occupa proprio della rielaborazione delle esperienze traumatiche. Quindi faremo dei gruppi di persone che condividono la stessa esperienza di caregiver, in cui applicheremo il protocollo EMDR di gruppo proprio per il trattamento dello stress continuo. Perché lo definite un evento traumatico? La demenza è una malattia che può durare parecchi anni. È costellata di eventi traumatici, come può essere la diagnosi, perché quando uno riceve una diagnosi di demenza sa che è una malattia da cui non si può guarire. Poi perché vedere il familiare cambiare la propria personalità, non sentirsi riconosciuti dal proprio congiunto, dal proprio marito, dal proprio padre, è equiparabile ad un lutto in presenza. E come si risolve questo trauma? L'MDR permette, attraverso una stimolazione bilaterale del cervello, di andare a riattivare il meccanismo assolutamente naturale di elaborazione delle informazioni del nostro cervello. Quindi l'idea è che il trauma crea un blocco nel meccanismo di elaborazione. L'MDR, attraverso la stimolazione bilaterale, lo va a riattivare, lo risollecita. È un meccanismo di autoguarigione del nostro cervello, ce l'abbiamo tutti. Noi viviamo le nostre esperienze, durante la notte le rielaboriamo, noi non facciamo niente, lo fa il nostro cervello in automatico, estrapola le informazioni che ci possono essere utili e va a eliminare quelle che invece non ci sono utili. Un'esperienza traumatica può essere talmente impattante da un punto di vista emotivo da andare a bloccare questo normale processo di elaborazione del nostro cervello. Alcuni appuntamenti: è in programma alle 17 il secondo appuntamento del Teatro Forum nella Sala del Consiglio del Palazzo Poste di Trieste in Piazza Vittorio Veneto. Livio Soldini dell'Armonia interpreterà il monologo di Giuliana Stecchina, Uccidere. L'Ampi organizza un concerto di cori in vista dell'80° anniversario della liberazione di Udine alle 18.30 all'Auditorium di Paderno. Le conferenze e gli incontri tra esplorazioni e irredentismo, Richard Francis Barton e la scoperta dei castellieri dell'Istria, conferenza organizzata dall'Istituto regionale per la cultura istriano Fiumano Dalmata in collaborazione con la Società per la preistoria e la protostoria del Friuli Venezia Giulia, invitano nella sede di via Torino 8, relatore Paolo Paronuzzi, che parlerà della scoperta dei castellieri dell'Istria alle 17.30. Per la rassegna Una luce sempre accesa, nella sala Luttazzi del magazzino 26 in Porto Vecchio, Lo squalo nel piatto, chi è il vero predatore, con Andrea Spinelli, ricercatore della Fondazione Oceanografica di Valencia, e Lorenzo Lippei, biologo e docente all'Università di Lubiana, Maribor e Capodistria, promosso da OGS WWF, area marina protetta di Miramare, alle 17.30. 14° appuntamento della rassegna di conferenze organizzata dall'Associazione Culturale Società Internazionale di Divulgazione Manlio Cecovini per gli studi storici, sociali ed etici all'Antico Caffè San Marco. Lo scrittore Andrea Comisso e l'attrice Sara Alzetta guideranno il pubblico attraverso un'indagine sulla vita e il pensiero di Oriana Fallaci alle 18, ingresso libero. E ora una mostra al Kulturnidom di Gorizia, dedicata all'arte sacra ed impegno sociale di Gigi Castellani, sarà aperta fino al 30 aprile. La mostra, che viene inaugurata oggi, è curata dalla parrocchia di Sant'Anna con il patrocinio dell'Arcidiocesi, dei comuni di Gorizia e di Cormons e il contributo del Consiglio regionale. Il vernissage è alle 17.30. e a Pordenone, per disposizione del sindaco e considerate le previsioni meteo, da domani fino al 22 aprile gli impianti di riscaldamento potranno essere attivati per un massimo di 6 ore e mezza, da distribuire in 2 sezioni tra le 5 e le 23. Era l'ultima notizia di questa edizione del giornale radio regionale. In regia Manuel Montalto e Bruno Montevecchi, in redazione ha collaborato Daniela Sossi. Da Dario Ronzoni e Rita Micoli, grazie dell'ascolto, l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.